Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Non parto! Io non lascio l'Italia, chiaro? Hai capito, bel paese? Io resto qui, io non ti lascio! Ci hai provato a farmi partire? Mi hai massacrato, scippato, rapinato, umiliato! Ma io resto, sai perché? Perché sono uno stronzo! Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Correva l'anno 1977 quando Paolo Villaggio recitava questa scena finale di Il Bel Paese e a distanza di 35 anni quelle parole suonano come un inno alla resistenza di quei giovani che oggi non accettano di dover necessariamente cercare un futuro all'estero, ma vorrebbero poter scegliere. La frase della settimana è copyright del maestro Riccardo Muti. Sono rammaricato per i tanti talenti costretti ad andare via dall'Italia senza che si faccia nulla per trattenerli. La colpa è delle generazioni passate, anche la nostra. A questi giovani dico: non smettete di credere nelle vostre potenzialità. Tuttavia, aggiungiamo noi, crederci non basta, servono opportunità concrete per restare, anche per chi qui vuole fare impresa, magari non conoscendo nessuno, senza avere i contatti giusti. Mi sarei aspettato una società fondata sul merito e sul lavoro, non su immobilismo e corsie preferenziali per furbi e raccomandati. Adriano Farano, 32 anni, è un giovane imprenditore start-upper a lavoro in California. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura gli ultimi dati Istat, disoccupazione giovanile ai massimi storici, in Italia quota 36,5%, la più alta mai registrata. Tra gli under 25 le persone in cerca di lavoro sono 639.000, picco del 43,2% per le giovani donne del sud. A ottobre facevamo peggio solo di Grecia, Spagna e Portogallo. Sempre per l'Istat, in Italia sono under 35 oltre la metà dei dipendenti a tempo determinato e nel complesso in Italia sono solo 5,8 milioni gli under 35 al lavoro. Per il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, oggi abbiamo un ritardo enorme sul capitale umano. A ciò si aggiunge il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli, giovani formatisi nelle università italiane che preferiscono andare all'estero. Nel solo settore delle scienze fisiche è andato via il 23,7% di loro, avverte l'Istat. E per il premier Mario Monti, l'esecutivo ha stanziato 600 milioni di euro per la banda larga e le iniziative in campo contro la fuga dei cervelli. The situation is clearly unacceptable and we must take action. Una situazione chiaramente inaccettabile, occorre passare all'azione. Con queste parole il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor ha presentato mercoledì un pacchetto di misure per l'occupazione giovanile, quattro i pilastri, la principale è la Youth Guarantee, un'offerta di lavoro di qualità o un nuovo percorso educativo entro quattro mesi dalla fine degli studi, a seguire un contesto di qualità per gli stage, schemi per l'apprendistato e incentivi alla mobilità europea. Per Bruxelles i giovani inattivi italiani sono secondi percentualmente solo ai bulgari in Europa. E sempre la Commissione ha rilanciato il portale comunitario per il lavoro Eures. Chi cerca impiego potrà contattare più facilmente i datori di lavoro che richiedono competenze specifiche. La riforma sostiene pure i programmi di mobilità mirati per i giovani, mentre la Commissione Cultura ed Educazione dell'Europarlamento ha approvato il programma Erasmus per tutti, ribattezzandolo Yes Europe. Il maxi piano consentirà a 5 milioni di giovani di approfittare di una delle iniziative per la mobilità. Anche i manager 40-50enni emigrano causa crisi, lo rivela un recente articolo del Corriere della Sera che cita statistiche di Manager Italia. Negli ultimi due anni i manager espatriati sono raddoppiati, persino triplicati a Milano. Con più giovani a fare impresa si potrebbe avere un aumento del PIL, lo sottolinea Confcommercio. Se la quota di imprenditori giovani fosse superiore del 20%, il PIL crescerebbe di 5,5 miliardi. Gli imprenditori under 35 rappresentano l'11% del totale. Per Confcommercio progressi sul lato del PIL si otterrebbero anche attraverso maggiori investimenti in venture capital. Focus sulle startup. Nessuna città italiana si trova nella top 10 degli ecosistemi più attivi nell'innovazione, secondo lo Startup Ecosystem Report stilato da Startup Genome. I primi tre poli sono Silicon Valley, Tel Aviv e Los Angeles. Milano, capitale innovativa d'Italia, rientra solo se consideriamo la top 40. Il contributo che il web fornirà all'economia italiana nel 2015 oscillerà tra il 3,3 e il 4,3% del PIL. La cosiddetta Internet Economy registrerà una crescita annua tra il 13 e il 18%, raggiungendo un valore di 59 miliardi, lo stima Google. Ma secondo la Regional Innovation Scoreboard della Commissione Europea sono Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia i paesi con la maggiore concentrazione di aree leader nell'innovazione. Nessuna regione italiana nel gruppo di vertice, 7 invece tra le inseguitrici. Come sistema paese siamo al 15° posto in Europa.